Sabato prossimo inaugura un nuovo mercato contadino in città, in particolare a Salus Space, questo spazio di comunità rigenerato da poco. Ne parliamo con Giuseppe Melucci, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, un nuovo mercato contadino, appunto, raccontaci un po' come è nata questa idea di portarlo a Salus Space. L'idea di portarlo a Salus Space è nata dal fatto che Salus Space è il luogo probabilmente più adatto per questo genere di iniziativa. Salus Space, lo dico per chi non lo conosce, è un progetto dell'Unione Europea che è in mano al Comune di Bologna, che lo ha affidato a una ATF, cioè a dei soggetti del terzo settore, di cui Capofila è Tabeta, ma ci sono anche altri soggetti, tra cui Cantieri Meticci, l'IRF, le ACLI, Aquaponic Design. Salus Space è un luogo nel quale si fa inclusione sociale di migranti e rifugiati, è un progetto che va verso la transizione energetica e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro. Ci sono delle residenze collaborative dove gli abitanti appunto hanno un patto di convivenza collaborativa, di coabitazione collaborativa tra di loro e con il comune, e quindi sviluppano i progetti sull'agricoltura urbana, sull'integrazione e così via. Salus Space ci sono degli orti sociali dove ci sarà una produzione agricola, speriamo sempre crescente, c'è un emporio che vende lo sfuso, perché vogliamo che questa comunità sia a rifiuti zero, c'è poi un punto di ristoro e una parte dedicata agli spettacoli teatrali, c'è passo giusto in questo luogo che è ancorato alla terra e al lavoro, portare un mercato contadino nel quale appunto si vendessero i prodotti del territorio, in futuro anche quelli di Salus Space, e che quindi si ponesse in risalto l'importanza dell'agricoltura urbana e sociale, oltre che alla bontà e la genuinità dei prodotti. Questo mercato si terrà poi ogni sabato, giusto? Sì, partiamo il 1° maggio, che è anche una data simbolica, la festa dei lavoratori, quindi il lavoro, noi abbiamo al centro della nostra etica il lavoro e l'inclusione sociale, quindi ci è piaciuto partire il 1° maggio, ma poi dopo il 1° maggio saremo lì in via Malvezza 2/2 ogni sabato mattina dalle 8:30 alle 13. Durante l'inaugurazione appunto del 1° maggio ci sarà anche un punto di accoglienza per conoscere non solo il mercato ma tutto il progetto. Certo, quello che vi ho spiegato brevemente lo potrete vedere direttamente, ci sarà Lucia Manassi, che fa parte della cordata che gestisce questa realtà, che insieme ad altri, la comunità di abitanti, spiegherà qual è il progetto, quali sono le prospettive e quello che stiamo facendo già in questo momento. Tu hai fatto già riferimento all'emporio, ma ti faccio una domanda ancora più specifica, perché spesso insomma chi ha ritmi di vita frenetici e magari non riesce a essere nel giorno del mercato contadino fa un po' difficoltà, invece attraverso l'emporio si possono comunque acquistare anche negli altri giorni questi prodotti. Esattamente, l'emporio è un emporio dello sfuso e dei prodotti che troverete poi al mercato, per cui è una sintesi, diciamo così, del mercato contadino, ma troverete anche altri prodotti, per esempio proprio nella logica di rifiuti zero, anche dei detersivi concentrati da diluire nei flaconi che poi vi daremo noi. Ecco, quindi c'è una logica che va verso il rifiuto zero e contemporaneamente verso la valorizzazione del territorio e dei prodotti agricoli. Cioè, infatti volevo farti una domanda su questo, i produttori che saranno al mercato sono del territorio? Sì, i produttori che sono al mercato sono prevalentemente del territorio, poi ce ne sono alcuni che difficilmente potrebbero essere legati al territorio bolognese, perché per gli agrumi per esempio ci appoggiamo su una azienda siciliana, ovviamente produttori che vengono al mercato da noi e portano le loro agrumi per esempio, però per il resto sì, siamo molto molto ancorati al territorio bolognese e alle province limitrofe. Allora io ricordo l'appuntamento appunto per sabato 1° maggio in via Malvezza 2/2, l'orario? L'orario è dalle 8:30 alle 13, troverete là anche un punto ristoro per una colazione, per un aperitivo e se volete anche per un pranzo leggero e veloce. Grazie mille allora, Giuseppe. Grazie a voi, buona giornata a tutti.